ci puoi raccontare un po' che cosa ci potremmo aspettare da questa 31ª edizione di Angelica? Beh, come ho scritto, una geografia di esperienze che al di là della provenienza porta una molteplicità di espressioni. E quando dico espressioni parlo sì di espressioni musicali, ma parlo anche di espressioni, perché ognuno di noi ha espressioni diverse, porta espressioni diverse e può regalare agli altri, all'altro, delle cose che l'altro non ha e viceversa l'altro. Quindi è un punto importante, perché noi ci abbiamo sempre tenuto a questo aspetto. Poi certamente inizi che sei più giovane, poi dopo vecchi, poi dopo sei giù di morale, poi un giorno sei, no, gli umori, poi io sono uno che con gli umori, quindi questo tipo di programma è una rappresentazione di questo anche amplificata, non solo perché ha tanta presenza italiana, ma proprio da tante regioni diverse, e sono tutti un po' dei casi particolari per quello che possono portare a livello artistico, a livello musicale e umano. E insieme, in questo programma, io dico spesso, è come che anche le musiche stesse cambiano, perché se ogni sera hai un tipo di musica così anche differente, è come che tu vai e vedi tre concerti, alla fine questi tre concerti assumono un tono diverso anche per come hanno agito su di te queste musiche, rispetto a un festival magari dove vai e dici, faccio degli esempi stupidi, quel festival c'è solo l'improvvisazione, quel festival c'è solo la musica elettronica, laptop fatta al computer, quel festival c'è solo la canzone pop e guai se c'è qualcuno che fa un rumore, quel festival è un festival rock, ecco. Per Angelica è una storia diversa, e quindi significa anche aprirsi ad altri mondi. Se uno ha voglia di scoprire, comunque, diciamo, tecnicamente può avere un panorama, un quadro della musica di oggi o di domani che difficilmente credo possa trovare in altri luoghi, e penso anche presentata in un certo modo, ecco, con un po' di cura, con un po' di voglia di far ascoltare bene, voglia di fare bene, non so, poi dopo vedremo, perché qui poi sai ogni giorno qualcosa, no, cambia o c'è, e non è stato facile metterlo in fila, e penso anche che sia un piccolo miracolo il fatto che apri, ti dicono puoi aprire il 26 maggio, il 29 fai il concerto con un'orchestra, 37 persone, con Paolo Freso, Peter Pickler, con le musiche di Mirko Mariani, Teatro Comunale di Modena, forse uno dei primi, e noi dal 15 maggio, quindi so che c'è tanta gente perché l'hanno detto che non era pronta, o che apre a giugno, o che vai in estate, ecco. Però penso che questa forse sia una, forse lo sai meglio tu, se una delle prime cose che aprono. Sì, una delle prime, sì. Un paio di eventi del programma che ti senti di segnalarci? Guarda, innanzitutto ci sono curatori come Walter Rovere, Stefano Giust, Luca Vitali, musicisti che propongono una cosa loro, che hanno montato loro, e io artisticamente, oltre a confezionare un po' la cosa, ho cercato anche di coordinare. Poi ci sono delle cose che ho chiamato io e che ho più gestito direttamente io, ma mi è difficile dire, cioè la prima serata, per dire, un pianoforte senza corde, come si trasforma in suono e cosa diventa un concerto, già così mi sembra interessante. E poi questo pezzo Strahlen di Stockhausen è una roba, poi io lo dico perché a me piace molto, ma è veramente un'esperienza d'ascolto importante, perché sono cose che uno non so, a volte nasce una cosa bellissima in un secondo, ma tante volte nascono delle cose bellissime che nascono da uno studio lunghissimo. Questo è un pezzo che per farlo sono da 5-7 anni, per farlo, per metterlo in piedi. Questa è la serata dopo il trittico di Laszlo Hudacsek, che ha lavorato con Stockhausen ed è dedicata, quindi due sere dopo, cioè no, il 15, il 19. Il 21 è una serata radicale, direi, di Emiliano Turazzi, ma c'è questo equilibrio anche in questa serata, che se uno viene dalle precedenti io me la perderei. E poi se vuoi anche un po' di liberazione, batteria preparata, Roberto Dani, virtuoso della batteria, già venne con noi con Annette Peacock quando la facemmo a Modena, e poi Everis, questo pianoforte verticale che lo suona, sembra un pezzo di disco music, ha un inizio sui bassi che sembra che se uno ci aggiunge una batteria, quindi due strumenti preparati, no? E questo è un momento, direi, più liberatorio, non so come dire. Poi vabbè, il concerto per cornamusa solo e quartetto di cornamuse, con musiche di Otomo Yoshihide, Drawer Failer. Quindi ce le consiglia tutte? Ma abbastanza.